Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Corrado Passera, comasco, 58 anni, sposato, 4 figli, uno dei manager numero uno d'Italia, bocconiano, con una carriera super brillante, direttore generale della Mondadori prima e del gruppo Espresso poi, dal 98 diventa amministratore delegato delle Poste Italiane, le risana e ne espande i servizi finanziari con la creazione di Banco Posta, fino a portarle in utile nel 2002, dal 2002 come amministratore delegato di Banca Intesa e praticamente il banchiere numero uno d'Italia. Lascia tutto per fare il super ministro dello sviluppo nel governo Monti dal 2011 al 2013. Oggi sembra aver scelto definitivamente la politica. Dottor Passera, Enrico Cuccia diceva che passare da banchiere a ministro era una diminuzio. Lei l'ha fatto, aveva torto Cuccia? Cuccia aveva torto, nessuna diminuzio, certo, se si crede nelle istituzioni. Senta, ma perché in un mondo dove comandano i banchieri lei sceglie la politica? C'è più bisogno di politici, creda me, che di banchieri. Certo, se l'obiettivo della vita non è solo guadagnare. Sarò matto, ma ci credo. Ecco, però oggi chiunque fa politica sembra diventare subito peggiore di quello che era, uguale agli altri. Non le fa paura questo fatto? No. Perché? Perché no, non mi fa paura, ci credo, gliel'ho detto. Ecco, ma quando ha accettato di fare il ministro con Monti, si dice che lei abbia deciso in un minuto mentre si faceva la barba, è vero? È vero, per la ragione che le dicevo prima. E la barba l'ha finita poi? In realtà l'ho interrotta. Ah, l'ha interrotta. Poi l'ho finita dopo. Quindi il ministro con mezza barba, va bene. Senta, ma è vero che Napolitano le aveva telefonato prima dicendo che il paese aveva bisogno di lei? Dai Minoli, che il paese avesse bisogno di me mi sembra un po' tanto, dai, non esageriamo. E però? È pentito di aver deciso in un attimo con la mezza barba fatta? Lo rifarei, no, assolutamente. Ma sua moglie era d'accordo? Era d'accordo perché mi conosce molto bene. Ed era importante che fosse d'accordo? Sì, assolutamente. Come era importante che lo fossero anche i miei figli. Cambia tutto con una scelta del genere. Certo, è familiare. Peggiora la privacy, crolla il reddito, la qualità della vita va alla malora, diciamo. Senta, sua moglie di lei dice che lei è affascinante, se lo dice lei, coraggioso, maldestro, ma anche attento alle piccole cose e sa ascoltare. Si riconosce in questa bellissima definizione, diciamo, di sua moglie? Lasciamo stare il primo punto, come sa, l'amore è cieco. Sul resto, effettivamente, mi ci riconosco. E lei come la definirebbe sua moglie? Unica e complice. Bellissimo. Senta, oggi, che adesso è fuori da tutto, momentaneamente, chi ascolta? Ma qui c'è il tema del periodo che i ministri economici devono star fuori. Guardi, è giusto che per 12 mesi ci sia questa interruzione. Perché questa è una regola, dottor Passera. È una regola, è una regola e bisogna rispettarla fino in fondo. Certo, ti dà una possibilità di spazio, di possibilità di incontro di persone che non avresti avuto la possibilità di farlo e quindi io la vedo come un'opportunità della vita. Senta, dottor Passera, lei doveva essere praticamente il Messi del governo Monti, cioè la punta di diamante. Non ha chiuso neanche una delle 150 crisi aziendali che il governo doveva affrontare. Adesso però Minoli la strozzo. Cioè è stato un lavoro di ogni giorno, ne abbiamo chiuse più di 60, alcune grandissime come Fincantieri, oppure c'è stata Sigma Tau, OMS, ce ne sono state di ogni tipo, altre difficilissime in aree criticissime, pensi al Sulcis, Euralumina chiusa. Certo, alcune non siamo riusciti ad arrivare in tempo, Alcoa ce l'ho ancora sullo stomaco. Ma cos'è che c'è ancora sullo stomaco? Alcoa, si ricorda, certo, una delle benissimo. Aziende simbole del Sulcis, ma andando avanti e insistendo si può risolvere anche quella. E quindi non è pentito di aver accettato questa sfida? No, continua a dire. Quella no. Del ministero dice? Sì. No, ma ho avuto la riprova, come ai tempi delle Poste, che la pubblica amministrazione ha un potenziale di recupero formidabile. Senta, Di Monti, lei diceva quando è andato al governo, è una persona straordinaria, di credibilità assoluta, competenza, grandi doti umane, però non lo ha seguito nella sua avventura politica dopo. Perché? Beh, perché alla fine il programma non era abbastanza radicale e il partito non era abbastanza nuovo. Cioè, lei non voleva Fini e Casini, tanto per essere chiari? se vuol metterla così, la metta così. Doveva essere completamente nuovo. Gli italiani volevano una cosa totalmente nuova. Ha perso un'opportunità, allora. Ecco, adesso Monti però politicamente sembra quasi che si sia dimesso da se stesso. Una parabola triste. Beh, triste, come diceva lei, è soprattutto aver buttato via un'opportunità così grande e bella per l'Italia. E lo sente ancora? Eh? Sì, non spessissimo, ma lo sento. Senta, dottor Passa, adesso si dice che lei stia pensando a un ritorno sulla scena politica con un partito, con un movimento, è vero? A me non sembra che ci sia gran bisogno di nuovi partiti, però di idee forti per ricostruire e rilanciare il paese proprio se ne sente un gran bisogno. Ecco, quindi vuol mettere in campo queste idee forti? Sì. E sto mettendo insieme, ho messo insieme e continuo a mettere insieme un sacco di gente molto in gamba per elaborare queste idee. E non serve soltanto gente esperta nei vari settori, ci vuole gente molto radicata sul territorio che sappia quello che viene dai territori che fanno l'Italia. Montezemolo bis. Il mio progetto c'ha dentro un bisogno di coraggio grosso e Montezemolo non l'ha avuto. E lei si vedrebbe come leader di un nuovo centrodestra? Mi faccia cominciare a dire che di terze vie centriste non ce n'è, non esistono di queste vie. Se guardo al centrodestra o guardo al centrosinistra, oggi è più un momento di idee. Quando a gennaio presentiamo il programma, vedrà che ci sarà tanto consenso da entrambe le parti. E tra Alfano e Renzi allora non riesco a capire chi preferisce. Perché lei sa che cosa Alfano e Renzi hanno in testa concretamente di proporre agli italiani. E quindi quello che propone lei lo sapremo a gennaio, va bene. Senta, ma si immagina... E sarà molto chiaro, mamma mia. Senta, ma si immagina protagonista di un sistema bipolare o proporzionale? Lei sa che non siamo né nell'uno né nell'altro, siamo in un pasticcio generale. Oggi la priorità è far fuori il porcellum che esclude i cittadini dalla politica. Sistema francese, benissimo. Sistema da limone. Vabbè, qualunque cosa. Persino il Mattarellum, cioè tornare a quello prima è meglio che il disastro attuale. Senta, Berlusconi quando ha deciso di fare politica aveva televisioni e giornali. Lei come pensa di fare comunicazione? Perché deve comunicare una cosa tutta nuova che non c'è ancora, eccetera, eccetera. Bisognerà costringere con la forza delle idee i media a seguirci. Dicono che convince ma non scalda i cuori, si sta allenando a scaldare i cuori perché i giornalisti hanno il cuore dolce. In questo ha ragione, in questo ha ragione, perché se non si parla anche al cuore le montagne non si spostano. Senta, comunque fino a poco tempo fa lei era il principale banchiere di sistema, così si diceva in Italia, ma cosa vuol dire banchiere di sistema? Te lo chieda a chi usa questa infelice definizione, io non l'ho mai usata e non mi piace. Ecco, ma banchiere, allora diciamo così, un banchiere non dovrebbe soprattutto quasi solo dare credito a artigiani, piccoli imprenditori, questo dovrebbe fare, no? Lei certo, l'ha fatto? È la legittimazione ad esistere di banchiere, credo di averlo fatto come pochi altri, nei 10 anni di banchiere non c'è stato un anno, neanche dei più difficili, in cui il credito alle piccole e medie imprese non sia aumentato in valore assoluto. Senta, a proposito di mezzi di comunicazione, parlavamo prima per fare politica, si parla molto di privatizzazione della RAI, lei è d'accordo? Ma io credo nel servizio pubblico, però ci deve essere un bel grande progetto editoriale. Servizio pubblico, come lei sa, vuol dire portare in tutto il mondo il meglio dell'Italia, del made in Italy, sia culturale, sia tecnologico, sia della creatività. Cioè, noi siamo nel campo televisivo importatori netti, cioè portiamo format dappertutto e non siamo capaci di creare format per il resto del mondo. E quindi nel 2016, che è la deadline per la RAI, come bisogna arrivarci perché continui sto servizio pubblico? Possiamo parlare di meritarselo. Entro il 2016 la RAI deve meritarsi di mantenere il servizio pubblico e il relativo canone. Senta, se farà politica, come sta dicendo, cioè il suo passato di banchiere nel bene, nel male, sarà setacciato proprio al millimetro. Cominciamo a farlo noi. All'attivo? Guardi, se aspettassimo noi, il setacciamento c'è già stato di tutte le vite professionali precedenti. Comunque, all'attivo del banchiere, abbiamo creato una delle più belle e solide banche d'Europa con una squadra di persone fantastiche. Ci siamo inventati, faccio solo degli esempi, la moratoria del credito quando gli imprenditori erano veramente in difficoltà. Poi una cosa, piccola ma molto significativa. Abbiamo inventato Banca Prossima. Nel campo del terzo settore è una cosa che ci invidiano in tutta Europa. Senta, lei è stato però, per parlare di cose altre, di altro genere, anche il regista dell'Operazione Fenice, che ha portato alla privatizzazione dell'Alitalia. Oggi è un'operazione che è costata più o meno 5 miliardi e siamo da capo. Successo? Mettiamo ordine, Minoli, perché qui si confondono le cose. La vecchia Alitalia è stato un disastro. Gestione pubblica, 5 miliardi persi solo nel fallimento, ma ne aveva già persi tanti. Dopodiché hanno cercato anche di venderla, non l'ha voluta nessuno. Fenice ha permesso di riassumere 30.000 persone o di non far perdere 30.000 posti di lavoro. Pensi a quanto sarebbe costato di più il fallimento della vecchia Alitalia, sì, però, se non ci fosse però, stata Fenice. Dottor Passera, mi scusi, adesso siamo di nuovo da capo, grazie a Fenice, grazie a quello che vuole. L'Air France praticamente ha detto che l'Alitalia non vale niente e se ne va. Allora? Commettiamo un caffè? Air sì, France, su cosa? Air France rimane. Poi vogliono andarsene. L'aumento di capitale è garantito, per cui l'Alitalia comunque il prossimo pezzo di strada ha i mezzi per farlo. Non c'è più Air France, troveremo un altro socio internazionale. Bene, vediamo chi paga il caffè. Senta, ma erano davvero coraggiosi questi capitani con i quali lei ha fatto l'operazione? Non sembra, scappano tutti. Cominciamo a dire che ci ha messo più di un miliardo di soldi loro. Coraggiosi, non lo so, valuti lei. L'hanno fatto per salvare un'azienda con 30.000 posti di lavoro diretti o indiretti, però li hanno persi. Insomma, un ruolo l'hanno svolto. Cioè, dice, i loro soldi che ha messo erano soldi loro. Erano soldi che loro. Perso. Senta, Telecom, operazione di sistema, attivo o passivo? Per come finita, passiva. Vabbè, un disastro. Senta, comunque, pochi giorni fa lei ha detto il mercato non può risolvere tutto con i suoi mezzi, è il momento di tornare a qualche forma di partecipazione statale. Ma in tanti settori il mercato è la soluzione. In altri settori una presenza anche minore dello Stato con ottica di lungo termine ci vuole. Pensi alle reti strategiche, la rete elettrica, la rete del gas, la rete telefonica. Sì. È roba dove c'è un interesse nazionale forte. Sì. Senta, ma lei ha lasciato il mondo e il potere delle banche anche perché il turbocapitalismo finanziario non è più sembrata, diciamo, la strada per sviluppare l'umanità o no? Non è stata quella la ragione perché noi la turbofinanza credo non l'abbiamo mai fatta. Piuttosto è perché credo che con buona politica si possa fare molto di più che in banca, anche se le banche hanno tanto strumenti per fare la differenza nella società. Senta, ma risanare le Poste, come tutti li riconoscono, obiettivamente l'abbiamo detto anche nella presentazione, però licenziando 20.000 persone, come è stato? Cominciamo a dirci che ne abbiamo salvate 160.000. Guardi che se ritorna a quei tempi, tutti la volevano chiudere la Posta. Abbiamo investito in persone, in formazione, in tecnologia, abbiamo ricostruito. D'accordo, ma 20.000 li ha cacciati. Allora, 20.000 sono persone che sono state incentivate ad uscire, grande accordo sindacale, sulla base di un piano di impresa concordato con tutti e che poi ha salvato le Poste. Vabbè, allora, anche lì tutto bene. Senta, in un momento... Tutto difficile, e poi finito bene. In un momento di crisi come questo, gli stipendi dei banchieri però sono o non sono uno scandalo? Di stipendi scandalosi, non solo di banchieri, ce ne sono stati in giro per il mondo veramente troppi. Senta un po', a proposito di questo, della cultura dei banchieri globali, senta questa scena del film sulla crisi della Lehman. L'Ovest è fottuto, l'abbiamo mandato a puttane. Tutti noi, l'Ovest. È fatto, è finito. Tu lo vuoi chiamare un gioco? Questo è il gioco. Volete che i vostri pronipoti parlino cinese? Il dollaro sta per sparire. C'è stato l'impero romano, poi l'Europa, poi questo. Noi. Questa cosa con auto, e stereo e hula hoop. E abbiamo mandato tutto nella merda. Dove ci può portare questa visione del mondo, dottor Passera? Dove ci ha portati? Ai disastri di questo, di questi anni. Capisce perché prima le dicevo che non si può basarsi solo sul mercato. Il mercato non si autoregola da solo, c'è un ruolo molto importante della società e dello Stato. Senta su questo tema, esattamente lo stesso tema. Papa Francesco a Cagliari qualche settimana fa. Non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa, è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. Che effetto ne fa questa dichiarazione del Papa? Ha ragione, quando il denaro da strumento diventa idolo succedono i disastri. È un richiamo che tutti dobbiamo ascoltare per convincerci che la crisi che stiamo attraversando è molto più profonda di quanto sembri. Ma che cosa pensa di Papa Francesco? Una scossa fantastica che serviva alla Chiesa, ma mi lasci dire, un po' tutto il mondo. Lei ci crede in Dio? Sì. E cosa vorrebbe essere sicuro di saper insegnare ai suoi figli? Tante cose, però libertà, responsabilità e rispetto per gli altri, se me ne chiede tre, dico questi. E chi considera i suoi punti di riferimento culturali nella sua formazione? Ma nella formazione dovessi dire tre nomi, direi Einaudi, Dahrendorf, Galbraith. Aspetti, adesso la sorprendo. Don Sturzo. Ah, è un santo? Santo Francesco. E dal punto di vista spirituale chi sono stati i suoi maestri, diciamo così, punti di riferimento, diciamo? Ma parliamo magari di impostazione della vita. Le due persone sono state sicuramente prima mio nonno e poi mio padre. Senta, ma qual è il suo difetto più grande? Me l'ha appena detto lei, che non scaldo i cuori, troppa razionalità, cioè, però si può migliorare. Il pubblico non la vede, ma sta sorridendo, quindi vuol dire che sta imparando. Senta, una qualità che si riconosce invece? Non mollo mai. Senta, torniamo sulla terra però. Perché questa legge di stabilità non le va? In Italia abbiamo circa 10 milioni di persone con problemi gravissimi di lavoro, o non ce l'hanno o un lavoro che non basta. 10 milioni con i loro familiari sono quasi la maggioranza dell'Italia che ha paura del futuro. Ecco, ma allora lei cosa cambierebbe di questa legge di stabilità, che poi è lo strumento concreto col quale il governo deve, vuole, prova a cambiare? Delle grandi cose le ho già detto, parliamo poi a gennaio, però anche nel breve, cioè si può mettere più soldi in tasca alla gente attraverso per esempio il cuneo fiscale, si può pagare più velocemente le imprese per quell'enorme debito scaduto della PA e poi bisogna rimettere in moto gli investimenti privati e in questo momento direi soprattutto pubblici. Ecco, ma nell'insieme questa qui è una legge che favorisce o deprime lo sviluppo? Beh, non lo aiuta, quindi non lo favorisce. Quando per così tanti anni si va giù, per mobilitare un'economia grande come quella italiana, bisogna mobilitare almeno 200-300 miliardi. 200-300 miliardi? Lei è in grado di mobilitare 200-300 miliardi? Ne riparliamo a gennaio? Cioè 200-300 miliardi, a gennaio Passera mobilita 200-300 miliardi, beh, dove li prende? Lasciamo un attimo di suspense. Ah, sempre a gennaio, appuntamento quasi a tutti a gennaio, ma lei intravede dei segni di speranza intanto aspettando questi 300 miliardi? No, ma l'Italia è comunque un paese che ha tantissime forze, pensi al nostro ruolo nel mondo in tanti settori. Poi, guardi, girando si trova tantissima gente che continua, che ce la fa, che insiste, che realizza le cose. Di questi non si parla quasi mai, questo è veramente sbagliato. Ma lei, dovendo scommettere... Un caffè già ce l'abbiamo in ballo. A quanto lo dà il governo Letta? Su questo non scommetto, però concordiamo che le elezioni ora sarebbe il male peggiore per l'Italia. Peggiore di tutto. Peggiore di tutto. E l'Europa guida tedesca sarà mai un motore dello sviluppo, non solo per se stessa, non solo per la Merkel? In questi ultimi anni ha veramente mancato un ruolo di leadership. L'entrata nella maggioranza dei socialdemocratici probabilmente la spingerà un po' nella direzione giusta. Cioè qualche speranza gliela danno. Sì. Senta, però in ogni caso, aspettando l'aiuto dei socialdemocratici, le spinte anti-europeiste sono sempre più forti. Tutti i sondaggi lo dicono. Allora, che cosa deve assolutamente cambiare nella politica europea perché l'Europa non esploda? Investire molto di più nello sviluppo e non parlare solo di austerità e soprattutto dimostrare che l'Europa non è una tecnocrazia, non è una burocrazia, è politica, è Europa dei popoli, è l'Europa del noi, non del loro. Senta, ma l'immigrazione riuscirà a diventare un problema realmente europeo? problema e soluzioni possono essere solo europei, indispensabile, ma poi veramente non abbiamo alternative. No, perché poi È parte del nostro futuro, lo dice la nostra demografia, cioè noi dovremo competere per i migliori immigrati dal mondo e dovremo fare in modo che quei movimenti che si stanno creando in tutta l'area del Mediterraneo, africani, ecco, siano gestiti, pensati e non solo subiti, perché la storia dice che se quella è l'attitudine si viene sommersi. Senta, dottor Pastra, le faccio un'ultima domanda. Se lei dovesse scegliere un motto oppure uno slogan per questa sua nuova vita di cui ci ha raccontato alcuni tratti e a gennaio continuiamo, quale motto sceglierebbe? Ma forse il meglio per l'Italia deve ancora venire. Grazie. A lei. Mix 24. Era una telefonata molto emotiva per una donna che si era vista giustamente. Io non entro nel processo, lì è un'altra storia. Sì, ma io non entro nella storia. Comunque ha un marito di 81 anni e dei figli che non erano figli suoi, sono figli del marito, tutti insieme, un'intera famiglia. Beh, è un fatto che secondo me alla donna che rimane in casa un po' la fa soffrire, o pensa di no. E vabbè, però lei pensa che io, se trovo la moglie di un detenuto che piange, non la consolo? Lei pensa che io sarei così disumana? Ma non le chiamo direttamente perché semplicemente non le conosco. Ma perché non le conosco? Ma se mi capita nella mia vita, come mi è capitato tante volte, di imbattermi in fatti umanamente importanti, io la solidarietà la do comunque, non ho nessuna intenzione a rinunciarci, guardi. Non ho nessuna intenzione. Certo che la rifarei. Dunque era il ministro Cancellieri a Chianciano. L'altro giorno sulla sua vicenda si sta scatenando una battaglia che sembra sempre di più essere politica che non di merito. Il ministro comunque risponderà al Senato martedì e sentiremo, in attesa delle sue parole, Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie di essere con noi. Lei sul caso ha fatto un comunicato molto preciso. Che cosa ha detto esattamente? Il comunicato è del 1 novembre e l'hanno ampiamente ripreso tutti i giornali, Repubblica l'ha anche riprodotto integralmente. La premessa è che un'inchiesta molto difficile, molto complessa, è relativa a fatti che nell'ottica dell'accusa, si possono definire molto gravi. Questa inchiesta è ormai conclusa e gli atti relativi sono stati depositati, cioè messi a disposizione delle parti, di tutti coloro che possono accedervi. Certo. Conseguentemente questi atti in sostanza sono pubblici. E allora ciò che sto per dire, ciò che abbiamo detto nel comunicato, ciò che sto per ripetere adesso, è verificabile, è riscontrabile attraverso l'esame di questi documenti e di queste carte. Nel comunicato il collega Nessi, il collega Gianoglio e il sottoscritto dicevano sostanzialmente queste cose. La concessione degli arresti domiciliari da parte del GIP su richiesta della Procura è avvenuta esclusivamente in base a due fatti che dal fascicolo processuale emergono come obiettivi, provati, concreti, sicuri. Questi fatti sono, primo, le condizioni di salute dell'imputata. Condizioni di salute accertate con una consulenza tecnica di un medico legale fra i più qualificati, di grande professionalità e affidabilità, e consulenza tecnica la quale dice senza mezzi termini che c'è una situazione di pericolo legata alla permanenza in carcere e che conseguentemente è bene provvedere. Il secondo fatto, obiettivo, provato, concreto, sicuro è la richiesta di patteggiamento da parte dell'imputata fin dal 2 agosto, quindi in epoca che precede il pacchetto, il nucleo centrale delle telefonate di cui si sta parlando, e richiesta che sarà poi accolta, sulla quale il PM aveva concordato fin dall'inizio, che sarà poi accolta anche dal GIP, determinando conseguentemente la fine dell'iter processuale per quanto e riguarda. E quindi è finito tutto prima di qualunque telefonata? No, non ricordo. ricordo esattamente quando. Formalmente, cioè il 2 agosto il patteggiamento è già fatto, dire, irreversibilmente avviato. Viene formalizzato con un provvedimento del GIP, mi pare. Adesso non ricordo esattamente. Sì, vabbè, ma insomma, d'accordo. Grosso modo. I normali tempi di valutazione e di trattazione di qualsivoglia ipotesi di patteggiamento. Tutto questo però ci portava e mi porta oggi, ci portava nel comunicato, mi porta oggi in questo intervento ad una conclusione. Sì. E cioè, non può non considerarsi arbitraria, non può non ritenersi infondata qualunque ipotesi, qualunque prospettazione, anche solo in via di ipotesi, qualunque illazione, in base alla quale la concessione degli arresti domiciliari è avvenuta sulla base di circostanze esterne, diverse da quelle obiettive che ho appena illustrato, menzionato, e quindi niente, per noi il discorso è finito. Per quanto riguarda il piano della nostra competenza, rimane in questi termini. Certo. Cioè, sul piano tecnico questa è la situazione. Io la ringrazio moltissimo per il suo intervento e le auguro buon lavoro. Grazie mille. Altrettanto a voi, Minoli. Buona giornata. Grazie. Ecco, io vorrei chiedere a voi, ai miei amici Buttafuoco e Secchi, è vero che il caso Cancelliere è diventato un caso nel quale si sommano tutte le altre cose, come al solito, un caso da elezioni anticipate, cioè il partito delle elezioni anticipate si è saldato a prescindere dal contenuto? Mi pare che quello che ha detto Caselli fa testo, insomma. Quello che ha detto il procuratore Caselli è molto chiaro, ed è vero che è diventato immediatamente un caso politico quello di un servitore dello Stato, qual è Anna Maria Cancellieri, che non può essere identificata in nessuno schieramento politico. È diventato un caso perché ha squarciato anche le contraddizioni all'interno dei due schieramenti. Certo. Il PD, dove ci sono i renziani che ovviamente hanno sposato questa ghiotta possibilità di far cadere il governo, e il PDL che vive una grande contraddizione, tanto è vero che i giornali della destra sono scatenati contro Cancellieri, mentre invece il PDL cerca di accostare il caso un po' scabroso e forse non accostabile, che è quello di Rubi. Ecco, Mario Secchi. Ma, lo scenario fatto da Pietrangelo è perfetto, le cose dette da Caselli secondo me sono una pietra tombale su tutte le speculazioni di tipo giudiziario che si fanno, eccetera. Insomma, è una speculazione politica. Ma è evidente che è una speculazione, cioè, i fatti politica. Sono stati chiariti da Caselli in modo precisissimo. Il caso è divertente, tra virgolette, perché non è di nessuno. Insomma, divertente. No, è divertente nel senso dal punto di vista giornalistico, perché mette in mostra anche, secondo me, la pochezza degli argomenti con cui viene attaccata. Guardate che fare il ministro della Repubblica comporta queste cose. Non c'è ministro che non le faccia ora e non le abbia fatte in passato, e il mondo reale non è quello dello Stato etico, dove alla fine tutti vengono ghigliottinati perché trovi sempre qualcuno più puro che ti epura. Ecco, prima di passare alle nostre a cosa bolle in pentola, segnalo soltanto che il presidente emerito della Corte Costituzionale Onida oggi scrive sul Corriere un pezzo il cui titolo è "L'umanità e l'equilibrio necessari per essere ministro della giustizia", al di fuori delle demagogia. Sigla. Tocca a lui la canzone, com'è? No. Facciamo un passaggio di palla. Comincia a Buttafuoco. E allora per iniziare ho bisogno delle note. Sei buono e ti tirano le pietre. E questa è la condizione in cui si trova un servitore dello Stato, qual è Anna Maria Cancellieri, che meritatamente è stata portata sugli scudi per il suo operato prima, e adesso, diventando una ghiotta occasione politica, una ghiotta occasione di fazione, invece viene lapidata immeritatamente. Mario, le bolle? Hai visto, ma le bolle, rapidamente, ti dico che US Airways e American Airlines si stanno fondendo. per le autorità americane devono vendere un po' di slot, linee aeree, diciamo così, e sai, fa pensare, perché mentre nel settore dei costruttori di aerei, nel settore del trasporto, tutto si concentra, noi abbiamo il caso all'Italia, affrontato anche nell'intervista che hai fatto con Rado Passera, che insomma langue parecchio, perché noi abbiamo una questione drammatica, sì, sotto, e anche tragicomica, posso? Prego. Un titolo? Più miliardi per tutti. A me veniva in mente un verso di Baglioni, passerotto non andare via, ma comunque vabbè. Poi oggi i dati di bilancio di una delle più grandi banche del mondo è la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, è importante per vedere lo stato di salute, diciamo, è un indicatore, i risultati dovrebbero essere buoni secondo gli analisti, ma in realtà frutto di molti tagli, vediamo, eccetera. E poi c'è una cosa sulla spesa pubblica e Obama. Senza benzina o gasolina, soltanto right, sir, thank you alla regia, come suol dirsi. è interessante perché il capitale pubblico, quindi gli investimenti pubblici in America sono crollati, sono a livello più basso del 1947, pensa, caro Minoli, e cioè dal dopoguerra ad oggi l'azione dei repubblicani, in questo caso negli ultimi anni, sulla spesa si è fatta sentire parecchio, sono scesi ben al di sotto del 5%, ed è molto interessante il questo. Tuo salamino, Pietrangelo, oggi siamo un po' veloci perché abbiamo allora parlato il salamino velocemente con Caselli. Oggi è il 4 novembre. Tutti lo dimenticano, allora per farlo ricordare io mi affido a un comunista vero che saprà spiegare che cos'è il 4 novembre agli italiani. Non si tratta di Napolitano, bensì no, di Peppone. Direte che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore e minacciava i sacri confini, e che noi del 99 che abbiamo combattuto sul Monte Grappa. Che bello. Giovanni, che bello, almeno sapevi da che parte stavi. Era più chiaro. O non stavi. Certo. Sono le 9.45, 14 secondi. Ricordo che, come sempre, la notizia in 3D è stata curata da Sara Tardelli. Ci ritroviamo dopo la viabilità. Mix 24. Sono le 9.47, 49 secondi. Vi do il numero di telefono 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666, al telefono Giorgio Simonelli, professore, per sapere, per parlare di televisione di qualità. Intanto, Mario, dov'era il canone ieri sera per te? Non lo so, perché io mi sono visto la Rometta, sai, io quando c'è calcio, grande delusione per te, sei romanista? No, però no, insomma, il pareggio gli fa bene. Vabbè, alla Roma, uno, scende sulla fa terra, bene al campionato, è una grande squadra, farà molto bene. Pietrangelo, tu? Ovviamente Fabio Fazio, che tempo che fa, bellissimo, no, solo che non funzionava no, l'audio, però ho capito che era una cosa di comunisti, no, era una cosa tutta, era una cosa di sinistra, però non era Peppone, però non era Peppone, non parlavano del 4 era politicamente novembre. Corretto. C'era un Baglioni, certo, stupendo, c'era un Baglioni, inedito, che l'ho evocato allora, è inedito, io, molto molto bravo. Professor Simonelli, lei era su Baglioni o su cos'era? Intanto, visto che tutti parlano di calcio, dico anch'io la mia. Dica. Ieri il canone, se c'era da Fazio, era con Gattuso. Ma, e non con Rino Gattuso. Allora, no, invece il canone vero. Bravissimo era Gattuso. Sì. Alle 21.15, perché nella rubrica che si chiama Tablet di Camurri, Viaggio nell'Italia che cambia, c'era un omaggio abbastanza prevedibile, visti i giorni, a Federico Fellini, un omaggio fatto per temi. Ma la cosa singolare, originale, interessante, era che tutto partiva non da Rimini, come sempre succede, ma dalle teche Rai. Finalmente si sono viste queste grandissime, bellissime, straordinarie teche, che sono la materiale incredibile dei più bei programmi degli ultimi anni. E questa storia di Fellini, che ripeto era fatta tematicamente, in realtà oltre che una storia di Fellini era una storia della RAI, una storia del modo in cui la RAI ha guardato e raccontato Fellini nel corso degli anni, per cui si succedevano vecchi programmi, Settimo Giorno, Tam Tam, gli speciali su Amarcord, apparivano i vecchi giornalisti, i Zavoli, Mazzarella, fino a Mollica, e più che una storia di Fellini diventava una storia appunto della... Delle tecche della RAI, dell'enorme patrimonio che c'è là dentro, posso dirlo personalmente, lo usate tanto. E quindi insomma non solo un omaggio alle tecche, ma anche un'illustrazione di come si possa fare storia, di come però la RAI in realtà ha costruito un immenso patrimonio, perché questa storia di Fellini era anche una storia ovviamente dell'Italia, di alcuni momenti, di alcune atmosfere. C'erano questi giornalisti che facevano discorsi estremamente intelligenti con Fellini, che rispondeva ovviamente in maniera intelligente. È un caso veramente singolare ieri sera, perché senza autocelebrarsi, sì, che è un atteggiamento che a me dà fastidio, senza autocelebrazione, però si è visto quale ricchezza sia l'audiovisivo, no, che la RAI. Professore, c'è Secchi che vuol fare una domanda. Prof, faccio una provocazione. La rapida che abbiamo, Michele, buongiorno, dopo sì, al telefono. Faccio una provocazione, ma non sarebbe divertente fare uno spin-off, cioè staccare quel pezzo della RAI che sono le teche, tutto il patrimonio più interessante, eccetera, e quotarlo in borsa con un'offerta da public company? Ma il professore, è professore di storia della televisione, però, non di economia. Quindi se chi mi vuol parlare di borsa l'altra volta, sì, no, basta. Non sono neanche molto bravo, professore. Professore, lei ha visto Reduci ieri sera? Ne ho visto una parte anch'io. Le è piaciuto? Abbiamo il telefono, Michele Buongiorno, che è il produttore del Guttai Film. Reduci, prodotto appunto da lui, da Michele, è un docufilm diretto da Andrea Bettinetti e che è andato in onda su Sky Cinema Cult. Ecco, com'è data questa idea di Reduci? Buongiorno, intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Ma il progetto in realtà nasce da lontano, va in onda solo adesso perché ha avuto un lungo ricorso, ma noi abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto nel 2010. Insieme ai nostri autori abbiamo... Tanto per ricordarlo ai nostri ascoltatori, sono 6 reduci dell'Afghanistan e improvvisamente insomma questi reduci ci fanno accorgere della guerra, dei segni che lascia, insomma. Sono 5 storie che abbiamo selezionato tra purtroppo tantissime che sono disponibili, visto l'attualità di questi anni. Ormai la nostra missione in Afghanistan conta più di 50 caduti. È stato difficile girarlo, questo documentario? Allora, è stato inizialmente difficile proporlo ed avere l'ok, perché insomma un progetto di questo genere non si può certo pensare di portarlo avanti senza andare a pari passo insieme allo Stato Maggiore dell'Esercito. Certo. Questo è un tema che è sempre stato un tema tabù. E lo Stato Maggiore dell'Esercito vi ha assecondato nella realizzazione di questo film? Dopo una ventina di incontri in cui non solo abbiamo dovuto far capire la nostra professionalità, ma l'intenzione dove volevamo andare, qual era l'ottica di questo film, qual era il punto di vista, cioè non era una cosa, è un film apolitico, quindi comunque noi volevamo solo raccontare, ed era giusto secondo me che gli italiani conoscessero le storie di cosa succede ai nostri ragazzi dopo che subiscono questi attacchi. E sono storie abbastanza drammatiche. Tutto qual è il sommato, percorso di recupero? Certo. Qual è il percorso di assistenza? Cioè, sono abbandonati? No, assolutamente no. Ma invece sono sostenuti da un punto di vista medico nel migliore dei modi, da un punto di vista psicologico anche lì meglio possibile, e anche materiale. E poi ognuno di loro ha la storia che ha, c'è chi fa più fatica, chi fa meno fatica, chi ce ecco, la ma tutto, come mai la come mai su Sky, scusi, ma come mai su Sky Cinema non sulla Rai, che fa molti bellissimi documentari? questo aspetto qua ho visto anche sui giornali dopo la conferenza stampa, ha suscitato un po' di polemica. Io non volevo fare polemica, semplicemente raccontare, però la polemica viene da sé, se vogliamo. Cioè, io mi hanno chiesto delle informazioni di produzione, io ho voluto raccontare 2 cose su come è andata la produzione che sono diventate delle riflessioni. Tutti si sono chiesti perché è andato su Sky, per quanto Sky... allora me lo dica. Perché è andato su Sky e non sulla Rai? L'esercito, ma poi noi facciamo questo mestiere da tanti anni... Lo so bene, lo so bene. in televisione un progetto di questo tipo andava proposto sulla rete nazionale. Mi dice perché non è stata, non è andato sulla rete nazionale, questo vorrei sapere. Lo vuole dire lei che conosce. Io non lo so, purtroppo. Neanche io. Non ho seguito il suo progetto. Abbiamo presentato il progetto e non è stato colto. Può capitare anche questo. Può capitare, certo. Poi magari, non so, avevano altre priorità, ma da parte nostra il pensiero è stato molto diretto. Era l'anno dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Quale miglior progetto possiamo pensare di proporvi se non una cosa inedita, mai realizzata, su un tema importantissimo che rappresenta l'esercito, che è l'Unità d'Italia per eccellenza. Per fortuna che l'avete fatto e che siete riusciti a trasmetterlo. La ringrazio tantissimo. La storia, siamo in chiusura purtroppo, vi raccontiamo la storia curata come sempre da Marina Milone, che è la storia delle ore drammatiche dell'alluvione di Firenze. Il 4 novembre del 66 è straripato l'Arno, ha sommerso la città, e grazie alla tenacia dei fiorentini, ai giovani che sono accorsi da tutto il mondo, i cosiddetti angeli del fango, il patrimonio artistico della città non è andato perduto. Dopo il giornale radio. A domani.